Prossimo tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas. È stato presentato sabato il report annuale dell'Osservatorio Caritas delle povertà e delle risorse, report numero 4. Ne parleremo poi più ampiamente in altri spazi, proponendovi la sintesi della mattinata che si è svolta nella parrocchia di Sant'Antonino dell'Arcella. Perché lo coltivasse e lo custodisse? Ne parliamo con il coordinatore dell'Osservatorio delle Povertà e delle Risorse della Caritas, Daniele Salmaso. Buongiorno Daniele. Buongiorno a voi. Partiamo dalla metodologia e dall'argomento. L'argomento sono le utenze, cioè le bollette di casa, appunto, che sono una delle richieste, delle tante richieste che arrivano agli sportelli e ai centri di ascolto Caritas. Qual è il metodo che avete adottato per fare questa mappatura? Sì, allora partiamo il perché le bollette, perché abbiamo deciso di lavorare sulle bollette. Perché di fatto nei centri di ascolto le bollette sono la voce più richiesta. Quindi buona parte degli utenti che si presentano in Caritas presentano molteplici problemi, ma il problema economico è il problema più frequente, è il maggiore. E all'interno del problema economico, che è correlato alla mancanza del lavoro, alla precarietà, della gestione della quotidianità, c'è il problema delle bollette, che è il problema che maggiormente emerge, in quanto il problema delle bollette, mentre si può anche mangiare poco, mangiare meno, si può anche vivere, lasciare la casa, che magari ha più comodità, andare a vivere in una casa più economica, in una casa con minori comfort, però le bollette arrivano sistematicamente. Per questo abbiamo affrontato il tema delle bollette. Quale metodo abbiamo utilizzato? Allora, il metodo utilizzato è stato piuttosto, per costruire questo report, è stato piuttosto complesso, nel senso che sono stati utilizzati l'analisi dei dati dei centri di ascolto vicariali, quindi tutti i dati inseriti in Oscar. Da questi dati sono stati estrapolati i dati economici. Però sono anche stati fatti dei focus group, 4, sull'intera diocesi, dai quali abbiamo raccolto i dati numerici, ma anche i dati qualitativi. Quindi non solo i dati quantitativi, ma i dati qualitativi sulle difficoltà delle famiglie nella gestione di questo problema. Però poi abbiamo anche, attraverso i centri di ascolto vicariali, coinvolto anche i servizi sociali dei comuni. Non sono stati moltissimi quelli che hanno collaborato, però quelli che hanno collaborato hanno dato uno spaccato su qual è lo stato dell'arte all'interno dei comuni nella richiesta di aiuto da parte delle persone per il pagamento delle utenze. Siamo andati però anche a intervistare gli enti gestori. Abbiamo chiesto quindi la collaborazione di numerosi enti gestori nel ETRA ed altre agenzie maggiori presenti sul territorio, e abbiamo sentito da loro qual è il problema, quanti sono gli utenti che ritardano a pagare le bollette e qual è la percentuale delle bollette che che non sono pagate, ma che poi delle quali viene sospesa l'erogazione alle utenze. Tutto questo articolato sistema di dati ha permesso di costruire il report 2016. Ovviamente sapendo chi sono gli interlocutori e poi nello specifico vedendo queste richieste relative alle utenze. Allora, quali sono i dati principali che emergono, considerando e ricordando poi che il territorio della diocesi è vastissimo, che comprende un'area urbana molto forte che è quella di Padova, e poi altre zone, insomma, che definiamo periferiche, ma con tutti i significati che questo ha. Quali sono i dati principali, allora, Daniele? Ma guarda, i dati, secondo me, il dato che ad esempio personalmente mi ha impressionato di più è che in una variabile dal 22 al 30% di utenti non pagano le bollette regolarmente. Quindi le agenzie mettono in evidenza come una percentuale così alta di utenti di fatto sono in ritardo con il pagamento, quindi sono persone ai quali vengono mandate le lettere di sollecito, ed è una quota secondo me veramente molto, molto elevata. E i dati che emergono poi sono che in alcuni centri di ascolto vicariali l'80-100% della richiesta è una richiesta di aiuto nel pagamento delle bollette. Quindi anche qui la bolletta insieme ai problemi abitativi sono tra i problemi che sono maggiormente sentiti, dalle persone. Altro dato interessante è che se i centri di ascolto vicariali hanno sostenuto come spesa per le bollette, hanno sostenuto una spesa che è di circa 141.000 euro di bollette pagate, e questo corrisponde al 64% dell'intero erogato dei centri di ascolto vicariali, e di fatto poi nel 2016, nel primo semestre, abbiamo visto come le parrocchie, un campione di fatto 21 parrocchie, hanno erogato anche queste una cifra molto alta. Correggo il dato, era 188.000 euro sulle bollette, il totale delle bollette pagate sul 2016 da parte dei centri di ascolto vicariali e 140.000 euro pagato da un campione di 25 parrocchie. Torno al titolo e torno alla copertina, perché c'è il tuo zampino, insomma la tua mano anche sulla copertina, perché è un acquarello di cui tu sei l'autore, e vorrei che ci spiegassi questo titolo, insomma il soggetto, perché lo coltivasse e lo custodisse. È un pezzo di Bibbia, no? Genesi, capitolo 1. Esatto, sì. L'intento è quello di pensare ad un creato. L'acquarello rappresenta un paesaggio con un colle e un campo di papaveri sostanzialmente, ed è parte del creato che è stato affidato all'uomo. Abbiamo scelto questo tipo di lavoro perché l'energia, l'utenza, le utenze, l'acqua sono risorse del creato, anche queste, e risorse che non dovrebbero andare sprecate e che dovrebbero essere utilizzate con giustizia, anche ed equità, cosa che ci sembra non sempre presente. Quindi il significato è sostanzialmente questo, quindi una rappresentazione di un'immagine di parte del creato, perché l'uomo fa parte del creato e le risorse che per noi oggi nel 2016 per questo report si traducono in bollette, ma usano risorse del creato. Grazie a Daniele Salmaso, coordinatore dell'Osservatorio sulle povertà e le risorse di Caritas Padova. Vi ricordo questa sera ore 21 l'ampia sintesi della mattinata di sabato con la presentazione dell'intero report. Avete ascoltato Prossimo Tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas.